Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera a tutti, buonasera ancora da Stefano, qui dalle onde di Radio Alma 101.9 FM a Bruxelles. Il programma è Jazz e dintorni, un altro appuntamento il martedì, spero di avere sempre più fedeli ascoltatori, direi da quello che mi scrivono e quello che mi dicono, mi sembra questo il caso e questo mi fa piacere, naturalmente anche i miei incoraggiamenti. Oggi un'altra carrellata di jazzisti, è una carrellata che ci porterà ancora una volta a conoscere dei musicisti di notevole valore, in questo caso collegati fra loro da uno strumento. Abbiamo già fatto un altro strumento, anzi anche altri strumenti, più di uno. L'ultimo era il contrabbasso nel jazz. Oggi esamineremo la chitarra. Esamineremo, naturalmente, una parola grossa per il tipo di approccio che noi avremo in questa puntata. Come al solito si tratterà soprattutto di ascoltare. Lo scopo del programma è proprio quello, proporvi sempre musicisti, musiche che possano interessarvi oppure non interessarvi, questo. Fatemi sapere anche quello che non vi piace, non solo quello che vi piace, perché comunque mi servirà per poi fare scelte future, quindi questo può essere sempre un elemento molto importante. Oggi appunto la chitarra nel jazz contemporaneo, con delle sonorità molto diverse fra loro. Le sentiremo, si tratterà sicuramente di così scoprire quali tipi di atmosfere questo strumento può generare, pur rimanendo sempre nell'ambito di questo grande genere di jazz, o jazz dintorni, come dico io, per indicare anche così delle interessanti escursioni in generi che sono così solo vicine al jazz in quanto tale. Iniziamo con un chitarrista sicuramente importante, ormai affermato, si tratta di Mike Stern. Mike Stern ha un'anima un po' rock di sottofondo, ma ormai è a tutti gli effetti un jazzista fusion, con le sue band, con le sue collaborazioni con tantissimi musicisti. Lo sentiremo oggi con un gruppo d'eccezione: Kenny Garrett al sax, Will Lee al basso, scusate, e Vini Colaiuta alla batteria. È un disco inciso nel 2003, si intitolava These Times, e il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Avenue B. Mike Stern. Mike Stern con un gruppo d'eccezione, un gruppo composto da Kenny Garrett, Will Lee, Jim Beard, Vinnie Colaiuta. Avete sentito che tipo di pezzi riescono a fare così dei grandi musicisti messi insieme, anche se la struttura portante è sempre sulla chitarra di Mike Stern e soprattutto direi in questo pezzo sul sassofono, bellissimo sassofono di Kenny Garrett. Era un disco del 2003, Avenue B era il pezzo, il disco si intitolava These Times. Adesso facciamo un altro salto, sempre avendo in mente la chitarra, o in questo caso dovremmo dire le chitarre, perché parliamo di ben tre chitarre. Tre chitarre che all'inizio degli anni Ottanta si sono messe insieme per costituire un gruppo che girava solo con tre chitarre. Si tratta di Aldi Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia. Tre chitarre molto diverse fra loro, esperienze piuttosto diversificate, però che messe insieme hanno prodotto dei dischi bellissimi. Il loro primo disco era un disco dal vivo, si intitolava Friday Night in San Francisco, e visto il grande successo che avevano ottenuto con questo disco, poi decisero di incidere anche in studio, e questo pezzo che ho scelto per voi è proprio tratto dal disco in studio. Il disco in studio si intitolava Passion, Grace and Fire, un disco del 1983 in cui un chitarrista inglese, John McLaughlin, un chitarrista americano di origine italiana, con origini italiane come Aldi Meola, e un chitarrista spagnolo si mettevano insieme per produrre quello che adesso voi ascolterete. Thank you. Avete sentito che cosa possono fare tre virtuosi della chitarra se sono messi insieme a suonare e soprattutto se suonano con grande entusiasmo, con grande trasporto? Vi assicuro, ho avuto la possibilità di vederli dal vivo ad un concerto nel corso di un festival a Montreux, e è molto difficile scegliere chi seguire mentre suonano tutti insieme, perché si rispondono l'un l'altro, come avrete sentito anche in questo pezzo, con così delle scale, delle invenzioni musicali tali per cui si passano gli occhi dall'uno all'altro cercando di carpire da dove vengono questi meravigliosi suoni che sono messi insieme. Erano Aldi Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia, da un disco di molti anni fa, il 1983, intitolato Passion, Grace and Fire. E adesso passiamo ad un altro chitarrista. Vi ricordo che la puntata di oggi di Jazz e Dintorni è dedicata alla chitarra nel jazz contemporaneo. Il chitarrista che ho scelto come terza proposta si chiama Wolfgang Mutspiel. Dal cognome capirete che ha qualcosa di tedesco, e in effetti è austriaco per la precisione, chitarrista nato 44 anni fa, e che anche lui ha girato il mondo, ha iniziato a suonare a 6 anni il violino e poi passare alla chitarra quando era un adolescente, e direi che questo passaggio sicuramente ha rappresentato un notevole guadagno per noi che lo possiamo ascoltare oggi. Ha poi continuato i suoi studi al Berklee College of Music, è un istituto, un college americano molto famoso, come voi sapete, e tra parentesi anche Mike Stem, per esempio, che abbiamo ascoltato prima, aveva studiato lì, quindi sicuramente un posto in cui grandi musicisti sono di casa, almeno la formazione di grandi musicisti. Come è diventato famoso Wolfgang Mutspiel? È diventato famoso perché a un certo punto nella band di Gary Burton, Pat Metheny, che era appunto il chitarrista della band di Gary Burton, decise di appunto continuare la sua carriera da solo, e fu chi lo sostituì fu proprio Wolfgang Mutspiel. Quindi questo dette una possibilità di naturalmente farsi conoscere e quindi affermarsi. In questo pezzo che ho scelto per voi lui suona con altri due importanti artisti, sono Brian Blade alla batteria e Mark Johnson al contrabbasso. Il pezzo è un pezzo orchestrato da un musicista, anche lui, che a me piace molto, che si chiama Vince Mendoza. Il pezzo si intitola Panis Angelicus ed è tratto da un disco del 2004 che si intitolava Air, Love and Vitamins. Il chitarrista è Wolfgang Mutspiel. Thank you. dispiace un po' interrompere questo bellissimo pezzo eseguito da Wolfgang Mundspiel, Panis Angelicus. Direi che riesce a interpretare benissimo con la dolcezza del suo tocco sulla chitarra e con i suoni che riesce a riprodurre proprio questa idea un po' sacra o spirituale collegata con un pezzo che ha un titolo, un tale titolo, appunto Panis Angelicus. Però dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare ad ascoltare altri importanti chitarristi, altri virtuosi di questo strumento, altre così diversi modi di suonare la chitarra, di produrre dei meravigliosi pezzi. Passiamo in questo caso a un musicista che è nato in Africa, a un chitarrista, si chiama Lionel Lueke, nato in Benin, da una famiglia molto povera, purtroppo bisogna dirlo, anche se spesso questo capita nelle famiglie africane, però lo stesso è riuscito poi a coronare il suo sogno, magari con molti passaggi, perché dopo il Benin si è spostato in Costa d'Avorio, dove ha studiato, e da lì poi è riuscito ad andare a Parigi e continuare anche lì a studiare, dopo aver studiato sempre studiare scuole legate all'arte e alla musica naturalmente, e da lì poi anche ha vinto una borsa di studio ancora una volta per il Berklee College of Music, e questo naturalmente gli ha aperto la strada così per suonare negli Stati Uniti, per entrare in contatto. È interessante sapere che ci sono queste opportunità per i musicisti, che sicuramente devono sudare ben più di sette camicie per riuscire poi a trovare la loro strada, ma alcuni ci riescono, e sicuramente nel caso suo è stato anche importante vincere un concorso al Thelonious Monk Institute, un altro di questi importanti istituti dove si favoriscono la crescita dei musicisti. E appunto, quando è stato selezionato per questo Thelonious Monk Institute, tra i giudici c'erano anche dei musicisti importanti come Herbie Hancock, Terence Blanchard e Wayne Shorter. Non è un caso che pochi anni dopo essere stato selezionato per questo istituto, Lionel Lueke è stato chiamato a suonare con Herbie Hancock, che da lì si sono aperte naturalmente altre strade e anche la possibilità di incidere i suoi dischi. Il disco che ascoltiamo oggi è un disco appunto inciso sotto il suo nome, si intitola Caribou il CD, e il pezzo che vi ho segnalato, che vi ho selezionato e che spero vi piacerà, si intitola Zala. I'm era Lionel Loueck con Zala da Caribou. Bonjour, c'est Philippe Geluck. Médecins du Monde se bat pour l'accès aux soins de santé pour tous, ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Et comme eux, comme vous je pense, je trouve inadmissible que des gens malades ne puissent pas recevoir de soins. C'est pour ça que je soutiens les équipes de Médecins du Monde. Alors, ensemble, on peut les aider. Un numéro de compte, 8x0-29-29. Je répète, 8x0-29-29. Chaque don est important. Bene, ritorniamo a Jazz e dintorni, sono Stefano, sempre all'ascolto di Radio Alma 101.9 qui a Bruxelles, e la puntata di oggi è dedicata alla chitarra nel jazz contemporaneo. Abbiamo già ascoltato diversi musicisti con suoni, arrangiamenti e situazioni molto differenti fra loro. L'ultimo era Lionel Loueck, che lascia ben trasparire la sua origine africana, e questo sicuramente costituisce una ricchezza che lui riesce ben a far passare attraverso le corde della sua chitarra. Tra parentesi, anche lui l'ho sentito dal vivo e in alcuni casi suona una chitarra molto particolare come forma e anche come suona, che è poi quella che avete sentito anche in questo pezzo che si intitolava Zala. Adesso sentirete un altro virtuoso di questo strumento a cinque corde, che è Stanley Jordan. Stanley Jordan è un innovatore, oltre che un virtuoso, ha iniziato delle tecniche molto particolari nel suono della chitarra, soprattutto di battuto e di pizzicato anche sul manico, che generano dei suoni molto particolari, degli effetti molto particolari, tant'è che il suo primo disco fu immediatamente, si intitolava Magic Touch, nel 1985 fu un immediato successo, e da allora ha continuato a mettere successi. Questo disco che vi faccio ascoltare è un disco suo molto recente, un disco del 2008, si intitola State of Nature. Nella descrizione del disco viene indicato che si tratta di una serie di riflessioni sulle relazioni esistenti fra l'essere umano e il mondo naturale, quindi anche qui ci sono dietro così delle sensazioni che si cercano di descrivere con i suoni. E il pezzo che ho scelto per voi si pone in quest'ottica, infatti si intitola Ocean Breeze. Il chitarrista è Stanley Jordan. Anche in questo caso dispiace interrompere questa brezza dell'oceano di Stanley Jordan. Certo, avrei un po' bisogno di questo tipo di sensazioni invece del freddo e pioggia e vento di questi giorni di Bruxelles. Però la musica ci può aiutare un po' a sognare, ad avere queste sensazioni, e direi che Stanley Jordan è riuscito nel suo tentativo di portarci in un ambiente diverso con questo suo Ocean Breeze tratto da State of Nature del 2008. E adesso passiamo ad un altro chitarrista importante per la Future, importante per tutto quello che ha fatto durante la sua lunga carriera. Parliamo di Larry Carlton californiano, nato 61 anni fa appunto a Torrance in California, e cominciato a suonare la chitarra dall'età di 6 anni. Negli anni 70 era già un importante session man sono quei musicisti che registrano con altri band in studio e si prestano appunto a dare il loro suono, il suono del loro strumento in dischi più disparati, e in questo periodo tra gli anni 70 e 80 Larry Carlton ha collaborato in studio con tantissimi artisti, non solo jazz ma anche pop, Steely Dan, Billy Joel, Johnny Mitchell, Michael Jackson, i Four Tops. Vedete, insomma, ha spaziato enormemente nel tipo di collaborazioni, così come ha suonato in una famosa band degli anni 70, che erano i Crusaders, una band con dei suoni molto interessanti, molto importanti per quel periodo, con dei fiati, per chi li ricorda, molto particolari. Dalla metà degli anni 80 ha cominciato anche una sua carriera solista, incidendo dischi che hanno riscosso molto, molto successo, e ancora oggi Larry Carlton continua a fare concerti sia da solo sia con altri gruppi come chitarrista ospite. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo tratto da un disco abbastanza recente del 2005. Il disco si intitola Sunrise e il pezzo invece si intitola Goodbye, Larry Carlton. Thank you. Non me la sono sentita interrompere questo pezzo, l'ho fatto ascoltare fino in fondo. Goodbye da Sunrise del 2005. E adesso passiamo ad un altro chitarrista americano, si tratta di Bill Frisell. Bill Frisell è un musicista e compositore di generi, sicuramente appartiene al jazz, però ha spaziato in tantissimi altri generi e soprattutto è un grande sperimentatore. Si è spostato sul progressive folk, ha fatto anche delle cose di musica classica, di musica country, di musica molto sperimentale, contemporanea, nel senso di provare nuove sonorità. È anche interessante spesso vederlo suonare perché fa un grande uso di effetti. E quindi quando voi lo vedete suonare la chitarra, vedete anche che sì, suona la chitarra, ma passa anche moltissimo tempo con tutte le sue pedaliere o altri vari aggeggi elettronici con cui distorce il suono, genera il riverbero, e sicuramente sono delle situazioni estremamente particolari, in cui lo si può sentire. Allo stesso tempo lo si può sentire anche in tree, jazz molto più diciamo classici, nel senso di suoni che vengono poi prodotti. Il pezzo che vi ho scelto è un pezzo da un disco recente, si intitola The Best of Folk Volume 1. Il pezzo si intitola Mr. Memory e il chitarrista è Bill Frisell.

George Benson e il Clou, l'ultima proposta musicale di oggi, nostra puntata dedicata alla chitarra nel jazz contemporaneo termina qui. Speriamo di avervi fatto conoscere qualche altro artista. Naturalmente tengo a specificare che gli artisti scelti oggi in termini di chitarra non sono necessariamente i più importanti, né quelli che io ascolto di più. Sono sicuramente gli artisti che a me piacciono moltissimo, ma come avevo citato per esempio Pat Metheny non ve l'ho fatto ascoltare, anche se mi piace tantissimo, perché avrò tante altre occasioni. Invece oggi volevo approfittare per proporvi magari qualcuno di meno scontato e lo stesso di ottima qualità. Io sono Stefano, qui è sempre Radio Alma, il programma è Jazz e Dintorni, e adesso vi lascerò in buone mani perché gli amici di Brussellando sono già qui pronti e sicuramente vi saranno delle interessantissime proposte culturali. Da un saluto da Stefano, vi aspetto martedì prossimo sempre con un'altra puntata di Jazz e Dintorni. Hey, Tammy Mac is in your box with a new group that's straight fire. Shawnee Mac, Johnny B formed a soul group Impromptu, but it's unclear of what genre of soul we should categorize this groundbreaking duo with. So Shawnee Mac, exactly what is it? Right now, I wanna make it clear, Impromptu's not it, we've been around for years. Highly respected among our peers for making good music people love to hear. Some of y'all may be confused because of the style we choose. We mix hip hop, jazz, and R&B. We don't categorize, we just make what sound good, baby. Is it hip hop? It is what it is. Is it jazz? It is what it is. Is it R&B? It is what it is. Call it what you want, it is what it is. Is it